Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. As the storm passes on its way, it leaves a trail of destruction in its wake. Trees flattened as winds gust in places up to 99 miles an hour. Avete sentito? 20 fino a 99 miglia all'ora. La tempesta San Giuda ha investito la Gran Bretagna. Due le vittime, un disperso. Ci sono 300.000 utenze senza elettricità. Fermo il 20% dei voli a Heathrow. Allagamenti, interrotte strade e ferrovie. Brunetta, Radio 24. Ridateci l'IMU di Monti. Da oggi raffica di audizioni sulla legge di stabilità. Intanto i dati indicano un peggioramento del clima di fiducia delle imprese. Il saldo tra aperture e chiusure di aziende è ai minimi da 10 anni. Dopo il suicidio di un ragazzo di 21 anni ci si torna a interrogare sull'omofobia. Il fatto è avvenuto a Roma, dove nei mesi scorsi si sono registrati molti episodi di violenza nei confronti di omosessuali. Ne parliamo col sindaco Marino. Capitali all'estero ammontano ad almeno 200 miliardi di euro, scrive il Sole 24 Ore. Piano per il rimpatrio, ipotesi di sterilizzazione delle conseguenze penali. Altare e polvere, la domenica di campionato consegno una Roma a cui va bene tutto e un Milan nel quale non va bene niente. Una buona giornata dunque da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Le notizie ci portano innanzitutto in Gran Bretagna, dove quella che è stata definita come la tempesta del secolo sta investendo il paese. Allerta color ambra, la terza più alta su una scala di 4, la tempesta San Giuda che sta colpendo il sud della Gran Bretagna e il nord della Francia viaggia velocissima con venti che vanno oltre i 150 km orari e pioggia che cade violentissima. Una furia che ha abbattuto tanti alberi e che ha ucciso, stando alle ultime notizie, due persone nel Kent in Gran Bretagna, un disperso nel nord della Francia, 260.000 le abitazioni senza elettricità in Inghilterra. Terra 75.000 in Francia, sospese le corse dei treni per parte della mattinata, ora sembra che la situazione stia lentamente rientrando, molti anche i voli cancellati negli scali principali. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'altra notizia in primo piano in queste ore è quella che riguarda lo scandalo NSA, il controllo delle comunicazioni di paesi e leader dei paesi da parte degli Stati Uniti. Di questa mattina la notizia che sarebbero 46 milioni le telefonate controllate nel nostro paese nel giro di soli 30 giorni. I servizi segreti italiani non hanno evidenze su quei 46 milioni di telefonate spiate nel nostro paese per un mese, tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, da parte della National Security Agency americana, di cui ha parlato il sito Cryptom, considerato l'antenato di Wikileaks. L'intelligence di Roma invita alla prudenza riguardo a queste indiscrezioni e soprattutto a distinguere tra spionaggio e monitoraggio. E nel frattempo la questura della capitale ha deciso di intensificare la vigilanza nei pressi di obiettivi sensibili come sedi diplomatiche e ambasciate, in particolare quella degli Stati Uniti. Le indiscrezioni del sito Cryptom, secondo il quale l'agenzia di intelligence statunitense avrebbe spiato almeno 125 miliardi di telefonate in tutto il mondo, arrivano mentre il Wall Street Journal riporta che la NSA ha messo fine al programma di monitoraggio di 35 leader mondiali, inclusa la cancelliera Angela Merkel, programma di cui il presidente Obama per quasi 5 anni non sarebbe stato a conoscenza e su cui a Berlino si va verso una commissione d'inchiesta del Bundestag. Oggi intanto, in un'intervista alla stampa, la commissaria UE alla giustizia Viviane Reding, in missione a Washington insieme ad altri parlamentari europei dopo il Datagate, propone di creare un servizio europeo di intelligence entro il 2020. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla politica, tra poco verremo a quelle che sono le vicende interne dei partiti, tutte e due, almeno i due principali, comunque un po' scossi. Intanto però parliamo di economia e non solo. Il capogruppo del PDL alla Camera, Renato Brunetta, è intervenuto questa mattina, intervistato da Giovanni Minoli in Mix 24, e tra i temi che ha toccato c'è la questione dell'IMU e quella della RAI. Ascoltiamolo. Nel 2012 con Monti abbiamo pagato di IMU 24 miliardi, nel 2013, se verrà cancellata la seconda rata, pagheremo 20, con la service tax di Letta rischiamo di pagare 30, arridateci l'IMU di Monti. Ah, ecco, quindi diciamo non abbiamo sbagliato tanto. Assolutamente. Mi pare no. che allora, avete per questo, perso, insomma. No, no, non abbiamo perso. Si paga di va più. Va cambiata. A oggi si paga di più. No, a oggi, l'ha detto lei. Siamo in presenza di un disegno di legge, non sì, decreto okay, legge. Ok, ma dico a oggi. Per cose, come sta va il disegno cambiata di... se questa rimarrà se no, noi se non no, ci stiamo no preso. Noi non ci stiamo okay. No, noi... uscite dal governo assolutamente sì. Bene. L'IMU deve tornare all'IMU del 2013. Perfetto. La questo service è chiarissimo. Tax deve essere 20 miliardi di euro al non massimo 30. Lo dice anche il ministro del tesoro Saccomanni, che lei però ha bocciato. Lei è d'accordo con Tarak? Eh? Ma veramente io sono d'accordo con gli italiani che tempo fa in un referendum votarono per la privatizzazione progressiva della RAI. Ecco, però il direttore generale della RAI, Gubitosi, ha detto che lei ha spaventato Crozza con l'attacco al suo compenso che ha fatto l'altro giorno e così ha fatto un danno alla RAI e un piacere a Mediaset. È ridicolo. Se un'interrogazione parlamentare fa saltare un contratto, delle due l'una, o il contratto era oscuro e doveva saltare, o se il contratto era un buon contratto, Gubitosi aveva il dovere di portarlo a termine. E sarebbe da citare per danni Gubitosi. Avete sentito appunto che Brunetta ha parlato anche della manovra. Ebbene, rimaniamo proprio sulla manovra perché sarà al centro evidentemente dell'attività parlamentare di questa settimana. Vincenzo Miglietta da Montecitorio, buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno, e sono tanti, Simone, in effetti i punti della legge di stabilità che andranno chiariti nel passaggio parlamentare, legge di stabilità che è alla prova intanto delle parti sociali. La scorsa settimana c'è stata l'audizione del presidente di Confindustria Squinzi, oggi è la volta di CGIL, CISL, UIL, CNEL e ABI, domani tra gli altri di Banca Italia e a chiudere il ministro dell'economia Saccomanni. Dicevamo allora dell'IMU e in particolare dell'abolizione della seconda rata sulla prima casa, a gelare le forze politiche è stato nel fine settimana il ministro Saccomanni, che su questo punto non ha dato rassicurazioni, ma sul capitolo della tassazione degli immobili c'è da registrare anche le perplessità di ANCE, Confedilizia ed enti locali. Altro tema, quello del taglio del cuneo fiscale, il punto da chiarire riguarda le modalità di distribuzione delle risorse destinate ai lavoratori dipendenti, parliamo di 1,5 miliardi di euro, risorse che per il sindacato restano insufficienti, di qui la quasi conferma dello sciopero a livello territoriale. C'è poi attesa per la soluzione di alcuni nodi irrisolti. Per il 2013 occorre infatti rifinanziare la cassa integrazione in deroga per 330 milioni di euro e vanno chiariti il piano di dismissioni e la spending review. E da Roma è tutto. Grazie dunque Vincenzo Miglietta, veniamo a quelle che sono le vicende un po' più interne ai partiti, il PD che fa i conti con il dopo Leopolda e il lancio della candidatura di Matteo Renzi, il PDL con la probabile scissione con una Marina Berlusconi che nega di voler entrare in politica. Elisabetta Fiorito, buongiorno anche a te. Buongiorno, sì, Simone, è proprio così, il PDL è sempre più polifonico, si rincorrono notizie smentite sulla discesa in campo di Marina Berlusconi e questa mattina ha parlato proprio la diretta interessata, non ho intenzione di impegnarmi in politica, mi vedo costretta a smentire ricostruzioni giornalistiche lontane dalla realtà, per la politica ho un grande rispetto, ma amo moltissimo il mio lavoro e le aziende nelle quali sono impegnata da oltre 20 anni, questo è il mio passato, il mio presente e anche il mio futuro. Dopo il ritorno a Forza Italia, poi Angelino Alfano smentisce un documento dei cosiddetti innovatori, ci riconosciamo tutti nella leadership di Silvio Berlusconi, a cominciare da me, dice il segretario e vice premier, una mossa che molti hanno interpretato come una retromarcia su un possibile strappo o su una possibile corrente. Un monito poi a tenere il partito unito arriva anche da Fabrizio Cicchitto, non bisogna radicalizzare lo scontro tra falchi e colombe né dividere il partito tra fedeli e traditori a Berlusconi. Per il momento qui da Roma è tutto, a te studio Simone. Grazie, grazie ad Elisabetta Fiorito. Trentino Alto Adige al voto intanto nelle due province. Alessandra Schepisi per capire come stanno andando le cose, quali sono i dati. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno, ancora in corso lo spoglio da questa mattina, ma il quadro è sostanzialmente delineato e certifica in Trentino Alto Adige il grande cambio dopo l'era dell'Eidurnwalder. A Trento vince di fatto Ugo Rossi, sostenuto dal PD, primo partito con quasi il 22% dei voti, ma esponente Rossi anche degli autonomisti del PATTE, partito autonomista Trentino-Tirolese. La coalizione si trova al 58,2% e di fatto il centrodestra a Trento scompare, centrodestra che nel 2008 tra PDL, Lega e Destra aveva raggiunto il 36,5%, male anche il Movimento 5 Stelle che rispetto alle politiche perde a Trento 3/4 dei voti. In Alto Adige la Südtiroler Volkspartei resta il primo partito altoatesino ma perde voti attestandosi al 45%, crescono i partiti secessionisti di destra, crollo anche qui dei partiti di centrodestra, poco sopra i 3 punti percentuali il Movimento 5 Stelle, in leggera crescita il PD al 6,8%. E numeri influenzati anche dal calo dell'affluenza, urne chiuse, in Trentino è stato segnato meno 10,3 rispetto alle provinciali del 2008, meno 2,4 in Alto Adige. A te Simone. Grazie Alessandra Schepisi, restiamo sulla politica per sentire come sempre a quest'ora il punto di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Fra molte affermazioni un po' generiche, Matteo Renzi ha detto anche cose molto concrete a Firenze. Una è davvero in grado di cambiare qualcosa nella politica italiana ed è l'aver messo in agenda la riforma della giustizia. Non una riforma ad personam, come pretendeva Berlusconi nei suoi anni d'oro, e neanche una riforma non riforma, come ha sempre desiderato una certa sinistra per non disturbare i magistrati. Bensì, sembra di capire, una vera riforma nell'interesse dei cittadini e anche, viene da dire, dell'autostima di una nazione come Italia, che non può essere sempre agli ultimi posti nelle classifiche internazionali che misurano l'efficienza della macchina giudiziaria. Se Renzi crede davvero in quello che ha detto e se si muoverà di conseguenza quando sarà il capo del PD, il nostro dibattito civile avrà fatto un passo avanti non da poco. Questo è il quadro della politica, ma noi vogliamo tornare adesso alle questioni economiche e lo facciamo con Valentina Melis del Sole 24 Ore. Benvenuta in studio, Valentina. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Perché? Perché oggi l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata a questi 200 miliardi di euro ai quali ammonterebbero i capitali all'estero, almeno 200 miliardi di euro, forse sono di più, ma le stime, come ovvio che sia in questi casi, sono incerte, e a come sta ragionando l'esecutivo per cercare di riportarli dentro. A che cosa si sta pensando? Si sta pensando a una doppia strada, una amministrativa, perché formalmente la autodenuncia e quindi il rientro, il rimpatrio dei capitali con una sorta di adesione volontaria oggi è già possibile, però bisogna lavorare sul cumulo delle sanzioni, perché oggi chiaramente può essere molto svantaggioso, e quindi una è la via amministrativa, una è la via normativa, perché bisogna allentare diciamo il carico penale. Oggi per esempio per l'omessa dichiarazione IVA o dei redditi sopra certe soglie si rischia la reclusione, quindi ovviamente è un percorso che va incentivato agendo su queste due leve, una amministrativa e una normativa. Quello che il governo vuole fare è dire stop agli scudi, cioè lo scudo implica una sorta di imposta forfettaria per cui si paga quell'imposta e tu ti metti in regola. L'idea di questo percorso di autodenuncia, che è già stato sperimentato all'estero, invece che tu le imposte che devi versare anche per gli anni passati le devi versare con gli interessi e ti agevolo sulla sanzione, cioè in sostanza cerco di venirti incontro sulla multa tra virgolette che dovresti versare per non esserti messo in regola con questi capitali portati o su conti correnti o comunque su altri tipi di forme di risparmio fuori dai confini. Grazie a Valentina Melis. Tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore oggi in edicola. In chiusura di questa parte noi vogliamo naturalmente parlare di calcio. L'avete sentito il nostro titolo, Altare e Polvere, una Roma a 9 vittorie consecutive, ormai lo sapete, in questo momento sto ghignando, e un Milan invece nel quale le cose non vanno per niente bene. Sentiamo. Avanti prossimo, gli lascio il posto mio. Povero diavolo. Più che povero diavolo, per stare al gioco, diciamo che non c'è da stare allegri, soprattutto se l'allenatore del Milan, il conte Max, ripensa all'estate quando stava per firmare un bel contratto con la Roma Superstar, che ora se la gode dall'alto delle sue 9 vittorie consecutive. La vita è come un treno, d'accordo, ma il vagoncino del Milan sembra lanciato verso l'abisso, come in quei film dove il ponte non c'è più e i freni non funzionano. Finito l'effetto Barcellona, i rossoneri tornano alla tribuna. triste realtà di una difesa che fa acqua e di un attacco che fa gol solo quando esce Ballotelli. E Allegri? Max sta in croce, come sempre, perfetto parafulmine di una campagna acquisti che vada più agli abbonamenti che alla sostanza, più agli annunci che alle necessità. Il tecnico abbozza, perché questo è il calcio bellezza, soprattutto se è un presidente come Berlusconi, che è lui il mago quando si vince e si defila quando si perde. A Milano dicono «è il giorno dei morti, Allegri». Poi arriva Natale e tranquilli che il nostro Max, tra un rospo e l'altro, riuscirà lo stesso a mangiarsi il panettone. Povero diavolo! Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Due vittime, un disperso, 300.000 utenze senza elettricità, interrotte strade e ferrovie. La tempesta San Giuda, definita come la tempesta del secolo, ha investito la Gran Bretagna. Brunetta a Radio 24, ridateci l'IMU di Monti. Da oggi raffica di audizioni sulla legge di stabilità. Intanto i dati indicano un peggioramento del clima di fiducia delle imprese. Sono dati dell'Istat e il saldo tra aperture e chiusure di aziende è ai minimi da 10 anni. Dopo il suicidio di un ragazzo di 21 anni ci si torna a interrogare sull'omofobia. Il fatto è avvenuto a Roma nei mesi scorsi. Altri episodi di violenza nei confronti di omosessuali, ne parliamo tra un attimo con il sindaco Marino. Capitali all'estero ammontano ad almeno 200 miliardi di euro, scrive il Sole 24 Ore, piano per il rimpatrio, ipotesi di sterilizzazione delle conseguenze penali. E apriamo questa seconda parte di Effetto Giorno parlando di economia. Saluto il sottosegretario all'economia, Pierpaolo Baretta, bentornato. Buongiorno a voi. Bentornato. Allora, lo ha sentito anche dai nostri titoli, sono dichiarazioni di questa mattina di Renato Brunetta, capogruppo del PDL alla Camera, intervistato da Giovanni Minoli, dice nel 2013 se verrà cancellata la seconda rata IMU pagheremo 20 miliardi, con la service tax rischiamo di pagarne 30, aridateci, così ha detto proprio, l'IMU di Monti, altrimenti usciamo dal governo. Come commenta? Ma Brunetta ci regala ogni giorno un commento alla situazione economica, qualche volta non la indovina. La service tax, la tassa di servizio che è stata varata con la legge di stabilità, è stata discussa a lungo, e lui sa bene, lo sappiamo tutti, che il fatto che mettiamo 1 miliardo come governo sul tavolo proprio per far sì che i comuni, questa diventa una tassa totalmente comunale, non aumenti l'aggravio per i cittadini, è una condizione che va presa in considerazione e che purtroppo quasi nessuno degli studi di questi giorni ha considerato, né quello della UIL né quello della CGIA di Mestre hanno preso in considerazione il miliardo che il governo mette a disposizione. Sottosegretario, però l'ANCI dice, tra l'altro ci abbiamo proprio avuti ospiti qua a Radio 24, dicono guardate quel miliardo non basta, cioè se resta 1 miliardo e se non si sale di qualche centinaio di milioni, hanno indicato una cifra spannometrica tra i 400 e gli 800 milioni, non riusciamo a tenere l'aliquota all'1 per 1000 della rendita catastale. Noi abbiamo infatti messo un'aliquota massima del 2,5 per 1000 che... Ed è caduta la linea col sottosegretario dell'economia Pierpaolo Baretta, però appunto abbiamo già avuto una risposta su quel che diceva Renato Brunetta a Radio 24. Noi adesso passiamo a parlare di omofobia dopo il suicidio di un ragazzo di 21 anni. Naturalmente ci si torna ad interrogare, un suicidio avvenuto a Roma, era avvenuto un episodio simile, aveva riguardato un ragazzo di 14 anni in agosto a Roma e molti episodi di denuncia di violenza vengono proprio dalla capitale. Allora abbiamo in linea con noi il sindaco di Roma, Ignazio Marino, che io saluto, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, non è che c'è un problema che riguarda proprio la capitale da questo punto di vista. Lei ricorderà sicuramente, se non erro, in febbraio il leader di SEL, di Sinistra Ecologia e Libertà, Nichi Vendola, aveva detto guardate io ho paura ad uscire in questa città la sera. Iniziamo con il dire che questa terribile tragedia è il frutto di una arretratezza culturale che non riguarda la città di Roma, ma riguarda il nostro paese. Noi siamo assieme alla Grecia l'unico paese del continente europeo dove non esiste una legge sulle unioni civili, dove non vengono riconosciuti i diritti di tutte le persone. Quando poi si affronta il tema dell'omofobia e dell'omosessualità più in generale, davvero a me appare che il Paese debba dotarsi di leggi e di indicazioni precise. Insomma, se nel 1973 la più grande associazione di psichiatri sindaco, il punto è chiaro, però la domanda era specifica sulla capitale, perché dagli episodi di cronaca che abbiamo visto in questi mesi e in questi anni i segnali sembrano indicare che c'è un problema a Roma. Il problema a Roma esiste nel senso che Roma è la capitale del nostro paese, è una città con quasi 4 milioni di abitanti, quindi un problema che può apparire piccolo, ma tale non è, in una cittadina di 15.000 abitanti, in una metropoli di 4 milioni diventa ancora più grande e evidentemente colpisce di più Roma. Quindi lei dice non è più grave che nel resto del paese? Io non credo che ci siano diversità a livello di gravità, io credo che sia grave in ogni luogo del nostro paese. Il nostro paese è drammaticamente indietro, Roma farà la sua parte, e tutti i gruppi consigliari della maggioranza hanno deciso di scrivere una proposta condivisa per quanto riguarda il tema del registro delle unioni civili. Come sappiamo, questo non risolve la possibilità di vere unioni civili nel nostro paese, ma è un segnale che la capitale, in maniera non solo simbolica ma pratica, vuole dare al paese. Il Parlamento si deve svegliare, deve capire che viviamo nel terzo millennio e che questo tipo di discriminazioni odiose che generano cultura di violenza devono essere cancellate con il lavoro dei parlamentari. Andrà ai funerali di questo ragazzo, sindaco? Io non so in questo momento quando i funerali si svolgeranno, se avrò la possibilità ci andrò, certamente la città sarà rappresentata. In questo momento, come tutti sanno, stiamo lavorando 18 ore al giorno per il bilancio di una città che abbiamo trovato in bancarotta, ma è chiaro che simbolicamente la città sarà presente. Noi non possiamo davvero accettare questo disagio, queste ferite culturali che addirittura arrivano a provocare la morte di una persona. Chi siede in Parlamento deve davvero scrivere quelle leggi che portano l'Italia allo stesso livello degli altri paesi del nostro continente. Grazie Ignazio Marino, sindaco di Roma, e saluto Ettore Ciano, presidente di AGEDO, l'associazione dei genitori di omosessuali. Buongiorno Ciano e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, immagino lei abbia sentito l'intervista al sindaco Marino, dato che voi appunto raccogliete i genitori di persone omosessuali, vorrei capire da lei se secondo lei invece c'è un problema romano oppure no, e partirei da qua e poi invece andiamo su. Ma io mi permetto di far notare al professor Marino che Roma è capitale d'Italia ma è anche capitale del mondo LGBT, cioè finisce con raccogliere tutti i ragazzi dell'Italia meridionale che intendono evadere dal loro ambiente omofobo e restrittivo, per cui adesso non so il ragazzo coinvolto di quello che è l'oggetto della trasmissione, se viene dal sud e magari da studente stava qua, cioè molta gente che nella nostra esperienza, io sto parlando dell'esperienza Gedo, i nostri figli preferiscono andarsene all'estero, per esempio, dove trovano ambienti più accoglienti per la loro omosessualità. E così viceversa chi viene da un paese, io ho esperienza della Sardegna, della Calabria, chi viene da un paese molto con una visione molto ottusa dell'omosessualità, chiaramente tende ad inurbarsi a Roma, che è una delle città più accessibili. Quindi abbiamo una delle comunità più grosse italiane e questo fa avvenire una serie di episodi, di situazioni che sembrano apparentemente che siano causa di Roma, ma non è. Giustamente il dottor Marino metteva in evidenza la questione del problema nazionale. Questa è una questione nazionale. E Ciano, le voglio chiedere una cosa, perché purtroppo abbiamo poco tempo. Allora, entrambi i suoi figli sono omosessuali. Sì. C'è un problema da parte delle famiglie di incapacità di accettazione? Cioè, l'omofobia può nascere anche là e nasce là? Sicuramente. Noi siamo italiani. Siamo in un'Italia che è omofobo, a mio giudizio, poi chiaramente ci sono studi che lo mettono in evidenza in tutti i riquadri, e l'ha detto Marino, siamo assieme alla Grecia gli ultimi in Europa e così via, non abbiamo legislazione che tuteli oppure che prenda in considerazione semplicemente, tutto il sistema legislativo nostro non ha la parola omosessuale ancora recepita per normalizzarlo, cioè per inserirla nel contesto. È chiaro che il genitore vive qua, ha questa cultura, è omofobo. Io sono stato omofobo per diverso tempo. E adesso naturalmente non lo è più. Assolutamente no, è cambiato, perché si capisce di che cosa si è vittima. Cioè, sia i genitori che i ragazzi sono vittima di un sistema che crea omofobia, o almeno la lascia proliferare. Cioè, magari non fa niente per crearla, per attizzarla, o meglio lascia fare almeno. Però fa molto per, cioè non fa niente per toglierla sostanzialmente. Grazie a Ettore Ciano, presidente di AGEDO, l'associazione genitori omosessuali, per essere stato con noi, e buona giornata. Noi ci fermiamo, c'è una pausa, ci ritroviamo tra un attimo e poi ci sentiremo il lunedì, come sapete, è il giorno dello speciale, dell'inchiesta del nostro Daniele Biacchessi, e oggi l'ha dedicata a Lou Reed. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Tre vittime al momento, 300.000 persone senza luce, senza elettricità, ci sono problemi per i voli, disagi a Parigi e Londra, traghetti bloccati, stiamo parlando della tempesta San Giuda che ha investito la Gran Bretagna con venti fino a 99 miglia orarie. Brunetta, Radio 24, ridateci l'IMU di Monti, replicato poco fa il sottosegretario Baretta, dice se ne inventa sempre uno. Da oggi raffica di audizioni sulla legge di stabilità. Dopo il suicidio di un ragazzo di 21 anni ci si torna a interrogare sull'omofobia. Il fatto è avvenuto a Roma nei mesi scorsi, molti episodi di violenza nei confronti di omosessuali. La capitale non ha un problema specifico, dice il sindaco Marino. I capitali all'estero ammontano ad almeno 200 miliardi di euro, scrive il Sole 24 Ore, piano per il rimpatrio, ipotesi di sterilizzazione delle conseguenze penali. E adesso è il momento dell'inchiesta di Daniele Biacchessi, questa più che un'inchiesta è un ricordo oggi, ci racconta Daniele Biacchessi di Lou Reed. Più di ogni altro aveva raccontato i mille volti di New York, le sue contraddizioni, ritmi, costumi, colori, e alla fine si è spento nella sua Long Island. Lou Reed, nome d'arte per i fans Lulu, è stato uno dei pochi alfieri della musica della fine degli anni 60 ad arrivare a noi, ad essere ancora in attività, nonostante una vita di abusi, di droga e di eccessi. Ma ogni volta che Lou Reed tornava su un palco per un tour o sfoderava un nuovo CD, stupiva il pubblico. Non c'era in lui, nonostante gli anni, la triste routine del mestierante, quello che vive dei successi passati e si riposa. Il lungo cammino musicale di Lou Reed è stato costellato di una ricerca. Per lui fu così fin dall'inizio, fin dalle sue prime invenzioni, gli Shades e soprattutto i Velvet Underground, tirati su con la splendida voce di Nico, con i nuovi suoni progressivi di John Cale e poi benedetti già nella prima copertina da Andy Warhol e dalla sua Factory. Rock, poesia, trasgressione e soprattutto tanta sperimentazione. I testi di Lou Reed appaiono subito irriverenti, si scagliano contro quell'America puritana e un po' bigotta che sembra contrastare le piccole e le grandi rivoluzioni. Lou parla di droga, di perversioni sessuali, i suoi testi sono intrisi di realismo. Le sue, se ci pensate, non sono canzoni, ma progetti poetico-musicali e performance. Così narra le strade di New York e ferma l'obiettivo delle metriche musicali sui volti, sul chiaroscuri, anticipando di almeno 10 anni la rivoluzione punk del finire degli anni 70. Dopo la rottura con Andy Warhol, il Velvet Underground, Lou Reed colleziona un numero impressionante di successi, da Transformer a Berlin, passando per Rock and Roll Animal registrato dal vivo. Il suo diventa rock muscolare, lui è sempre di più un animale da palcoscenico. I consensi si moltiplicano in America e lo portano in Italia nella metà degli anni 70 in un disastroso tour costellato da gravi incidenti e scontri davanti al Palalido di Milano e al Palazzetto dello Sport di Roma. When I'm rushing on my run and I feel just like Jesus' son, and I guess I just don't know, and I guess that I just don't know. Decadente, nichilista, di album in album, Lou Reed plasma il rock e lo trasforma in una fabbrica di suoni, in una factory intrisa di sperimentazione. Non c'è un nuovo filone del rock che non sia stato in qualche modo toccato e influenzato dalla sua manipolazione, dalla sua impostazione vocale. E questo è accaduto ininterrottamente fino agli anni 2000, quando Lou Reed si è cimentato in colonne sonore, omaggi a Wim Wenders, reading letterari, opere teatrali, performance tra video, pittura e musica. Lou Reed rappresentava la cultura del rock più di ogni altro. Ora il menestrello del rock ha scalato il cielo dalla sua Long Island per l'ultima volta. E così dunque il nostro Daniele Biacchessi su Lou Reed. Ritroveremo Daniele Biacchessi in effetto giorno venerdì. Ora, come sempre, e come sempre a quest'ora, continuiamo a seguire quello che sta facendo Roberto Giachetti, deputato del Partito Democratico. È stato ospite nostro, come sapete, venerdì, lo avete sentito. È stato ospite nostro perché? Perché sta facendo lo sciopero della fame, ormai siamo al 21esimo, 22esimo giorno, insomma, là siamo, per la riforma della legge elettorale. Insieme a Giachetti una serie di persone, persone comuni, cittadini, attori, registi, altri deputati, anche di altri partiti, hanno deciso di fare simbolicamente un giorno di sciopero della fame in solidarietà con lui e per la modifica della legge elettorale. Il 31 ottobre è una scadenza importante, è il No Porcellum Day, è la data nella quale sostanzialmente Enrico Letta avrebbe detto, insomma, vogliamo modificare la legge elettorale entro il 31 di ottobre. Per quel giorno raccoglieremo, metteremo insieme un po' di queste voci che abbiamo preso in questo periodo. Chi abbiamo in linea oggi? Buongiorno, sono Emiliano Liberati dalle Marche. Che mestiere fa? Sono un dipendente privato presso una grossa azienda agroalimentare. Come mai ha deciso questa giornata di sciopero della fame? perché credo che sia dovere di ogni cittadino metterci la faccia e dire no al porcellum per avere un sistema che consenta sia di decidere sia di avere un governo. Questa la sua scelta. E il 31 ottobre che cosa farà? Il 31 ottobre parteciperò con un'iniziativa nel nostro territorio a sostegno di Roberto Giachetti e di un paese che sia effettivamente rappresentato attraverso una legge elettorale degna di questo nome, che non è quella che c'è oggi, naturalmente, un'iniziativa simbolica insieme a altre persone che ci vedrà impegnati poi anche successivamente, suppongo. Digiunerete? Digiuneremo come stiamo già digiunando sin dall'inizio di questo nuovo percorso di Giachetti e esattamente come facevamo lo scorso anno. Grazie, grazie anche a lei, grazie ad Emiliano Liberati, cittadino, dipendente del settore privato che ha fatto un giorno di sciopero della fame in favore della modifica della legge elettorale. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. La tempesta San Giuda ha investito la Gran Bretagna, 3 le vittime, 300.000 utenze senza elettricità, interrotte strade e ferrovia. Brunetta a Radio 24, ridateci l'IMU di Monti, da oggi raffica di audizioni sulla legge di stabilità. Sarebbero 46 milioni le telefonate controllate nel nostro paese, in Italia nel giro di soli 30 giorni dall'NSA. Dopo il suicidio di un ragazzo di 21 anni a Roma ci si torna a interrogare sull'omofobia. Adesso è il momento di America 24 con Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone da Washington, Mario Platero. Perché a Washington vi ho detto che avrei parlato per un po' di eventi italiani in America. E beh, c'è stato il grande evento, la cena annuale, il gala annuale del NIAF. Avete sentito l'inno di Mameli che ha aperto la serata, ma poi è stato un continuo happening. Abbiamo visto personaggi straordinari come Leon Panetta, per esempio, ex capo della CIA, ex segretario al Pentagono. Pensate, l'uomo che di fatto ha guidato l'operazione che ha portato alla cattura e all'uccisione di Osama Bin Laden. Sentiamolo. Ecco, Leon Panetta qui porta un messaggio straordinario che è sempre quello degli italoamericani. Cioè, lui racconta la sua infanzia in California, una famiglia di italoamericani, è cresciuto da ragazzino lavando i bicchieri perché il padre aveva deciso di aprire un piccolo ristorante. Pensate, poi ha fatto carriera, è diventato deputato e da deputato è diventato ministro, capo di gabinetto di Clinton e poi capo della CIA e con Obama segretario al Pentagono. E naturalmente c'era il cotè italiano, perché essendo una festa italiana ed italoamericani c'erano i premiati italiani, c'era il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi seduto vicino a Nancy Pelosi capo della minoranza democratica alla Camera, c'era Roberto Colaninno, amministratore delegato della Piaggio, ha preso il premio per miglior businessman, diciamo, per il business internazionale. E poi c'era il grande premio a Diana Bracco per la filantropia. Io vi parlo spesso nella mia trasmissione dell'importanza della filantropia. Allora, di filantropia si può parlare e poi la si può fare. Diana Bracco è una che l'ha fatta, è stata premiata per questo, ma soprattutto ha scelto di dedicare questa serata nella sua veste di presidente di Milano Expo 2015 per dire agli americani: venite in Italia, riscoprite le vostre radici, il 2015 è l'anno in cui l'Italia sarà al centro del mondo, portate i vostri figli, i vostri nipoti e sentite che accoglienza ha avuto questo suo messaggio. The plea I make is simple, comes from the heart. Bring your children and grandchildren to Italy in 2015, so that they may experience. Bene, io ho con me ai microfoni di America 24, qui da Washington, proprio Diana Bracco. Allora, signora Bracco, lei mi deve dire intanto che cos'è essere al NIAF con questa platea di migliaia di italoamericani? Come ho detto, mamma mia, ho detto qui non so, vediamo se riesco a tenere il colpo. Invece poi è una platea molto, molto affettuosa. Sono tutte storie molto interessanti di crescita attraverso alcune generazioni. Ci sono tanti punti in comune, c'è poi sempre in comune questa determinazione, volontà di riuscire, ma anche questo poi affetto per la famiglia, questa visione un po' complessiva della persona, tipica, io credo, degli italiani. Quindi lei parla di valori. Una cosa a me ha colpito, non so se ha colpito lei, e cioè è un po' come se gli americani ci credessero di più. Si commuovono, c'è una retorica che da noi potrebbe essere considerata un po' così sdolcinata, e invece qui c'è, funziona, fa da collante. Hanno ragione loro o no? Hanno ragione loro, perché i valori vanno espressi e per forza di cose sono un pochino ricchi di descrizioni, ricchi di accessori. Ma io credo molto ai valori, se no non avrei del resto fatto anche questo, diciamo, percorso di filantropia che è stato premiato. Ecco, lei è stata premiata per la filantropia, ho detto prima le cose che ha fatto che sono straordinarie. Credo che in Italia abbiamo ancora parecchia strada per instillare il senso del give back, sì o no? Sì, proprio, del restituire in parte ciò che la comunità e il territorio ti hanno dato. Noi, perché noi siamo un'azienda di famiglia, quindi io sono la terza generazione, ce n'è già una quarta, noi abbiamo sempre, prima informalmente, ora in maniera più strutturata, seguito questo tipo di atteggiamento. Fai bene e restituisci quello che ti lasciano fare in modo che la tua azienda diventi prospera e dia anche risultato economico importante. Milano Expo, io ero alla Casa Bianca quando Barack Obama ha detto: bene, noi adesso parteciperemo, abbiamo dato la luce verde perché questa cordata di privati si organizzi e partecipi all'Expo Milano 2015. Ecco, può essere una straordinaria opportunità. Lei è il presidente della società che gestisce Milano 2015, ha dato un messaggio molto forte agli americani. Crede che lo possano recepire americani e italo-americani, naturalmente? Io credo di sì. Questo messaggio di portate anche i vostri figli e i vostri ragazzi, nipoti, a vedere l'Italia. Noi vi organizziamo praticamente un viaggio virtuale nella realtà italiana del passato, ma anche del presente e anche del futuro, perché noi l'Expo la facciamo molto per i giovani. Se uno vedesse come sono i lavori adesso, magari dice: ma oh my God, ma ce la facciamo davvero a essere pronti? E Letta ha un po' scherzato, ha detto: ma dice, sai, gli italiani funzionano bene quando hanno il deadline, quando hanno la scadenza vicina. Dunque ci rassicura, ce la faremo in un anno. Anche gli americani ancora non hanno il padiglione. Sì. Le fondazioni sono a buon punto, sembra ridicolo le fondazioni, ma in realtà le fondazioni sono la cosiddetta piastra, cioè tutta la parte che è piena dei servizi che poi vengono distribuiti ai diversi padiglioni. Quindi ormai quella l'abbiamo, stiamo finendo, la parte dei lotti che vengono consegnati è praticamente pronta, e il padiglione italiano per primo avrà il suo lotto, l'avrà entro il mese di dicembre. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Scriveteci a @ Mario Platero su Twitter ed eccoci alla canzone del giorno. È morto ieri a Southampton, qui vicino a New York, Lou Reed, leggenda dell'underground, della trasmissione dei tempi in cui nascevano Andy Warhol, Patti Smith. Aveva 71 anni e una devastante malattia al fegato. Il trapianto non ha funzionato. Voglio ricordarlo con un suo classico entrato nella storia della musica, Take a Walk on the Wild Side. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do. Da New York è tutto, Simone, ti restituisco la linea. Mario Platero vi saluto e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. In chiusura, come sempre, i saluti e i ringraziamenti. Filippo Aureggi in regia, Laura Fagin in redazione, tutta la redazione, come sempre, di Radio 24 per il supporto. Effetto Giorno si chiude qua. Vi ricordo anche i nostri contatti, la pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Mi trovate anche su Twitter, se volete, Simone Spezia. Noi adesso ci fermiamo. Naturalmente la trasmissione torna domani alle 13. Ci risentiamo però tra poco, come sempre, per il giornale radio.